24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Mi scusi, presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Per avere un consenso alla prima votazione ci vuole un quorum molto molto alto, e solo domani faremo discussioni con i partiti e valuteremo dopo aver visto loro. È chiaro che il fatto che i 5 Stelle non si siedono ci mette oggettivamente in difficoltà rispetto a questo obiettivo. A questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. No, non se ne è parlato oggi di nomi. I nomi è un gioco di società, un indovina chi. Oggi si è fissato un metodo. È un metodo, come ho detto, che ha dei rischi perché prepara le condizioni che il Presidente della Repubblica possa scaturire solo e soltanto dal patto del Nazareno. Ma per fortuna, purtroppo lo sono. Oltretutto Renzi è un baro, ma è un baro in quello che dice, perché nel momento in cui vuoi eleggere il presidente al quarto scrutinio, che cosa succede? Succede che il dettame costituzionale lo bypassi, perché la Costituzione prevede i primi 3 scrutini proprio per eleggere un presidente condiviso, e alla fine se tu lo vuoi eleggere al quarto vuol dire che non lo vuoi condiviso, e allora è inutile fare dei tavoli, quindi mente sapendo di mentire. Alcuna appartenenza, tranne Garibaldi e altri. Ecco, avete capito tutto, no? Non vedo alcun motivo per chiarissimo essere orgogliosi. Mi scusi, presidente. Chiarissimo quello che succederà, no? Delle camicie nere al tempo del fascismo. Alle 6:30 minuti. Erano Speranza, capogruppo alla Camera del PD, Gotor, anti-renziano per eccellenza al Senato, bersaniano, e Fico del Movimento 5 Stelle. Ah, siete pronti a questa settimana in cui ne sentiremo di ogni? Poi chi ci sarà di Presidente della Repubblica non lo so. Secondo quello che dice Renzi, prime 3 sedute saranno scheda bianca e poi sabato mattina sapremo. Sabato mattina forse farà direttamente il nome. Track, sabato mattina, questo! Mi sembra un po' sfasciato. E anche troppo. Lo voteranno? Non lo voteranno? E questo chi è? Questa chi sarà? Ma non lo so. Noi abbiamo un candidato qui a 24 mattino, ufficiale, visto che soprattutto ci sono le 3 schede bianche alle prime votazioni. Facciamo appello serissimo a qualsiasi grande elettore che voglia mettere nell'urna Vincino. Ha 50 anni, conosce l'Italia, conosce anche l'Italia nelle sue declinazioni più diverse, è stato in carcere 2 volte, ci ha raccontato, quindi conosce anche gli ultimi, conosce la società civile italiana. Vincino, voglio giovedì sentire a fianco a Magalli, anche Vincino. Dai, vi prego, uno degli elettori. Facciamo appello qui da 24 mattino. Votate Vincino. Su. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo. Qui ci giochiamo tutto il nostro potere di lobby, Alle 6:32 minuti. Adesso inizierò a attaccarmi al telefono a chiamare i pochi parlamentari con cui insomma possiamo chiamare direttamente e dire Vincino, dai, per favore, Vincino. Va bene, saluto Lorenzo Nespoli, redazione, e Peter Bescapè, regia. È il momento di aprire il Parlamento, Parlamento che oggi approverà la legge elettorale, vi giuro, Adesso forse. Vado a prendere un caffè, quindi forse. Semmai ci vediamo più tardi. Ma tanto ci spiegherà tutto il nostro Mariona Dinolfi, lui sa tutto di queste cose. Mariona Dinolfi, direttorissimo. Buongiorno, buongiorno. Stasera ti guardi anche sulla croce oggi, sì, la legge, visto tutto l'emendamento, tutto chiaro, spiegato pelo pelo proprio. Ma guarda, hai la pagina che ho saltato così, trac. Ma non si fa, si fa. Io spiego tutto per te. Vabbè, Marione, ti voglio presentare un grandissimo ritorno qui al Parlamento, il nostro Chicco Testa. Buongiorno, come va? Buongiorno. Oh, che bella voce squillante. Di solito quando svegliamo alle 6.30 sono tutti un po' squillante, non direi. Tutti un po' nervosi di solito alle 6.30, invece, e invece no, abbiamo un Chicco Testa spumeggiante. Allora, Chicco Testa, tu l'hai capita la legge elettorale? Sì. Sì, ah, più o meno, incredibile, incredibile. Più o meno. Sono più l'unico pirla rimasto ormai. Vabbè. Cos'è che vuoi capire? Dimmi. No, non lo so, intanto si approva oggi. Sì, al Senato, sembra di sì. Ma poi c'è un ulteriore passaggio alla Camera, definitivo? Oh yes. Ah, allora non è approvata, allora diciamo le cose come stanno. No, però alla Camera le cose sono più, insomma, la maggioranza che sostiene la legge dovrebbe essere più ampia e più solida. Più ampia. E questo emendamento Finocchiaro ad Inolfi, ce lo puoi spiegare in tre? Come dico, sei? Allora se non sei fondamentale, se neanche la Camera, se tu mezzo quattro letture, invece no, sono solo due, cioè è normale, non è legge costituzionale questo. No, ho capito. L'emendamento però Finocchiaro ha stabilito il premio alla lista, cioè il premio non va alla coalizione, ma va alla lista. Premio che ottiene 340 seggi se vince le elezioni, sì. Quindi ha la maggioranza assoluta tranquilla alla Camera. Quindi al PD, premio al e PD. E in più ha fissato, per fare contenti i partitini, la soglia di sbarramento al 3%. Al 3%. Sai che si è ballato intorno a questa soglia di sbarramento, verso il 4, il 5, poi si erano inventati il 3,5. Adesso per farsi votare l'emendamento Finocchiaro, soprattutto per le esigenze dell'NCD che ha paura di non fare manco il 4%, si è abbassata la soglia al 3%. È tutto chiaro. Vedete la legge elettorale spiegata da Mariona Dinolfi? Andrete a votare, farete, perché tanto dice il PD, lo sappiamo, il PD fa 340 seggi e entrano tutti i partitini con la loro pattuglietta. Vabbè, vabbè, insomma non cambia niente, cioè Renzi al potere e poi tutti questi cespuglietti che romperanno un po'. Come ho spiegato. Va bene, va bene. Ma tanto noi siamo tutti Tsipras, che ci frega dell'Italia, adesso tutti alla Grecia. Allora io intanto Chicco Testa, sì. L'Europa deve temere qualcosa da Tsipras secondo te, dal governo greco? Beh, un po' di confusione ci sarà inevitabilmente, no? Perché Tsipras qualcosa deve portare a casa, l'Europa non è disposta a concedere molto, insomma. Ma io penso che si troverà una soluzione, perché stiamo parlando di un paese ricco, insomma, sì, con un debito relativamente grande, ma se Tsipras diciamo dà la prova anche di una certa moderazione, oltre che del radicalismo che giustamente ha mostrato sulle piazze, la soluzione si troverà. Ma cioè gli scaliamo un po' il debito pubblico, glielo dilazioniamo, gli allungheranno un po' le scadenze, ma sai, voglio dire, tutti hanno bisogno, la Grecia vive sul debito che ha, cioè mi pare di aver letto dai suoi economisti che non gli prestano degli altri soldi, arriva a luglio e poi E poi è finito la cassa. Capito? Però ecco una cosa mi ha un po' colpito, cioè con chi ha fatto il governo Tsipras? Ha fatto il governo con quelli di ANEL, si chiama, è una formazione di destra capitanata da Panos Kammenos, uno anti-immigrati, anti-barboni, anti-diritti civili, uno che va in yacht, uno che è anche accusato di non pagare le tasse. Insomma, Dinolfi, ma che ha fatto? È come se Vendola vince e fa il governo con la Santanchè, in pratica. Ha fatto l'alleanza con la destra anti-euro. Ho capito, ma voglio dire, l'icona della sinistra, Tsipras, e va al governo con la Santanchè. E deve governare, questo è il problema. la politica ha queste logiche tremende, per cui alla fine devi far quadrare i conti, devi avere i numeri e ma i numeri come? Più consoli sono quelli mamma là. Mamma mia, ma il è G8, il Lo Global, il codino. Su, ha vinto le elezioni. Non metto la cravatta. Dai. Ho metto la cravatta e mi accordo a destra, perché sono un politico. Mamma mia. E i politici fanno quello che vivono per reggere insomma il loro potere, perché l'obiettivo del Tsipras non è essere buono, è avere il potere, capisci? Avere il potere. Se non capite questo, miseria, è come tutti. I politici vogliono il potere, fanno una bella campagna elettorale dicendo ai greci: vi diamo tutto a tutti, che è meravigliosa, no? Chi non vota una campagna di aumento le pensioni, aumento gli stipendi, aumento la spesa pubblica, è meraviglioso, straordinario. E poi voglio e il poi potere. M'accordo a e poi mi accordo con. Voglio il potere. Mi accordo con il Santanchè della destra. Ma mica male Chicco Testa questa lettura, però. Cioè, ma io sono rimasto un po' così, per carità, non aveva la maggioranza assoluta, aveva bisogno di. Però va tutto bene così? Rimane l'icona della sinistra? Sì. Insomma, qualche problema c'è, certamente. Lui ha. Non so quanti deputati e quell'altro ce n'ha un decimo rispetto a lui, quindi è molto forte, però... ma sono decisivi, se saltano. Certo. Vabbè, poi bisogna vedere in corso d'opera magari un po' di... Anche in Grecia c'è un po' di trasformismo, quindi magari qualche deputato di qualche altra formazione passerà con Tsipras, eccetera, eccetera. Però certo, no, cosa ci dice questa cosa? Ci dice che... facciamo un piccolo ragionamento serio. Ci dice che le linee di distinzione tra le differenze forze politiche tra destra e sinistra oggi in Europa sono profondamente cambiate. Non c'è solo l'alleanza con Grecia indipendente, c'è cioè un partito di destra, ma c'è anche il plauso a Tsipras di Marine Le Pen, di Salvini, perché ai normali conflitti destra e sinistra si aggiungono degli altri completamente nuovi, anti-Europa, a favore o contro l'Europa, chiaro, a favore o contro l'euro, a favore o contro la famosa troica, tra chi vuol pagare il debito e chi il debito non lo vuol pagare. È per questo che Tsipras ha fatto l'accordo con la destra, esatto, anti-euro, come dice esatto. È più importante diciamo essere Tsipras non è anti-euro, però insomma, anti-Europa, è più importante quella roba lì che essere, che ne so, a favore o contro gli immigrati o i diritti. Sì, è la nuova unione trasversale, non c'è destra e sinistra che tenga, deve miscelarsi con tutta una serie di... Sì, però voglio dire, non è che il programma di un governo come quello greco sarà tutto in linea sull'Europa o non l'Europa, cioè poi se devono decidere qualcosa sull'immigrazione, problema, per esempio sull'immigrazione, solo un paese di mare come noi ha rischio immigrazione con le coste, e che fanno uno che è inclusivo e l'altro che gli immigrati li tratterebbe? Cosa fanno Vendola e Santanchè? Vendola e Santanchè non lo so, però ad Adinolfi troveranno la quadra. Ieri era interessante perché in Italia c'era in studio a Piazza Pulita Stefano Fassina. Sì, Stefano Fassina è estremamente importante del PD. Ed era interessante. Era interessante che diceva: avrei votato Tsipras. E Tsipras, che è un partito appunto di sinistra, non è un partito del Partito Socialista Europeo, per capirci. Cioè, un esponente del PD che ci hanno fatto due scatole così, quando prima c'era il deputato del PD, bisognava per forza entrare nel Partito Socialista Europeo. Adesso è già pronto a andare oltre il Partito Socialista Europeo, a dire che il Partito Socialista Europeo non funziona più, non serve più. Sì. E quindi a seguire la falena di questa stupidaggine. Tsipras è una stupidaggine, ragazzi. C'è l'opzione di Tsipras, cioè davanti alla crisi colossale economica che ho, aumento a dismisura, a manetta la spesa pubblica, è delirante, cioè è una cosa che non può esistere. La ricetta che vedremo. Purtroppo è la ricetta che a un pezzo di sinistra italiana vuole portare in Italia. Qui il motivo per cui è interessante Tsipras, se ne stiamo parlando, è perché Renzi ha un tipo di opzione, chiamiamolo europeista, e la sinistra, diciamo così, che lo contrasta, che è piuttosto ampia, non è più nei giornali e nei nei ceti politici che nella dinastia è più siprasiana. Però vuole dire in Italia che in Italia bisogna fare più spesa pubblica, come se dovevamo aumentare tutti gli anni. Basta più spesa pubblica, basta. Però ho letto che funziona, do più soldi a tutti. Ma è chiaro, sapete con chi dovrà trattare molto probabilmente, col Fondo Monetario Internazionale, il governo greco? Chi ci sarà a trattare? Ci sarà Cottarelli, ve lo ricordate Cottarelli? Perché ridi testa? Perché adesso è responsabile per Grecia, Italia, Sud Europa del Fondo Monetario, mister mani di forbici. Chissà come si comporterà col governo greco, se saprà essere. No, perché stavo pensando, siccome Rionfi ha citato Piazza Pulita, sì, ieri sera hanno visti 3 minuti, perché c'era un servizio su alcuni musei siciliani che era impressionante. Cioè, la casa di Pirandello, 80 metri quadrati, mi pare 32 persone, tra custodi, dirigenti, curatori, eccetera. 50.000 visitatori all'anno, 32 persone, incasso 50.000 euro, stipendio del direttore 65.000 euro. Vabbè, dai, un lieve passivo, insomma, si può recuperare l'anno prossimo, con la cultura. Però allora adesso dai, vogliamo parlare anche di quello che succederà questa settimana. Parliamo del Milan. Ah, è vero che qua stasera noi siamo in Champions League. Stasera noi abbiamo una grande serata. Mariona Di Nolfi, la senti la musica della Champions League? Già da stasera è importante, perché c'è un lettore che ha detto che avrebbe comprato 2 copie del mio quotidiano, la croce del CEO Forza Milan. Te lo dico allora, Forza Milan, Forza Alessandro Milan. Hai detto Forza Milan, ridillo più forte e chiaro. Forza Milan, ma certo, quando sei a 23 punti, ma che ti devo pur dire? Di vendere due copie della... Ma tu, chicco testa, ma l'hai capita questa avventura di Mario Di Nolfi, che è direttore della Croce Quotidiano? No, l'ho perso un po' di vista. Vedo che sui vari social network lo insultano da mattina a sera. Ma non solo sui social network, al telefono, perché a Di Nolfi ha fatto questa iniziativa straordinaria qui da noi, che vorrei tu, Marione, anche oggi rilanciassi. Momento, Ennio Taglioli via Twitter ti scrive, Alessandro, confermo che Mario Di Nolfi risponde al telefono con grande cortesia. A che numero vogliamo dirlo? Rispondo al 334 37 98 534, che non è un cellulare banno prestato, è il mio cellulare da cui sto parlando adesso giorno e notte, quindi non chiamate adesso che trovate occupato, mi raccomando. È occupato, al 334 37 98 534. Solo se avete in mano una copia del quotidiano La Croce, vi forma. Oggi il quiz della Croce Quotidiano è che cosa c'è scritto a pagina 5? In alto a destra c'è un articolo interessante. Questo però lo leggerò io. Dopo dobbiamo cambiare, perché questo è interessante. Quello del trans. Bravo, il quiz è a pagina 5, il titolo di pagina 5. Dovete dire se sapete questa cosa, potete parlare con Andy Nolfi chiamandolo. Vabbè, Chicco, tu hai capito allora questa iniziativa? Bella idea di marketing, non ci aveva mai pensato nessuno. Vabbè, ma scusa, pur di vendere 2 copie, dice Forza Milan. Pensa a De Bortoli che fa una cosa simile. Chi non viene insultato sui social network è così. Dire che non ha idee. Allora noi dobbiamo andare al traffico e poi dopo parliamo un po' del Quirinale, del Quirinale. 24 mattino. Milan, è inutile che ti lascio un messaggio su quello che penso sui nostri politici, anche se facilmente intuibile, perché sei un poveraccio, un leccaculo che manda in onda soltanto i messaggi che fanno ridere o che ti fanno prendere punti. Sei un mendicante, sei un barbone. Dici al nostro caro Renzi che l'Italia non è più la culla del diritto, ma è la culla del dritto, perché la magistratura non funziona applicando la legge, funziona secondo così come vanno le cose. Milan, è inutile che parli male di quelli di estrema destra, perché saranno insieme a quelli di Salvini quelli che prenderanno più voti, capito? Forse dopo il PD, ma loro verranno subito dopo. Milan, non vedo l'ora che arrivi questo nuovo ordine mondiale e la perdita di sovranità di questi politici di merda che ha rubato l'Italia 1 miliardo di volte, meno non ruberanno più con sta gente che ruba i soldi e non dà i soldi da vivere al suo popolo. Ciao Alessandro, so che non ti andrà di parlarne, ma due parole sulla partita del Milan, dai, due parole almeno, dille. Klose ha capito tutto, entra in area da solo, Klose, non sbaglia, 2-1, partita capovolta, è pulito per Giorgevic, che litiga con il pallone, buona conclusione, Di Parolo, ancora una doppietta al Milan, ancora, Marco. Vabbè, Parolo, eccole qua, 3-1. Le due parole che dobbiamo dire, due parolo, più che due parole, due parolo, appunto, come dici, caro ascoltatore. Che dobbiamo fare? Vabbè. C'è un inno che suona. Anche Chico Testa è juventino, eh? È incredibile questa cosa. Cioè, sì. Tutti i juventini qua. Quest'anno le scommesse vanno su quanti punti di distanza tra la prima e la seconda. Com'era l'anno scorso, quanti sono stati? Eccoli, la tipica 15. Arroganza degli juventini, quelli che vincono e sono arroganti, non sanno vincere e non sanno perdere, non sanno vincere, si sa. Dai, che fra un po', quando ci metteranno fuori dalla Coppa della Champions League, sarete tutti felici. Dai. Saremo abbastanza allegri, vedremo. Allora, che succede con questo Quirinale? Mamma mia, secondo me gli italiani sono interessati zero a questa cosa. No, in realtà vogliono sapere chi sarà il Presidente della Repubblica, ma tutto questo balletto, sinceramente. Adinolfi, tu hai capito? Cioè, perché Libero dice che stasera si vedono Renzi e Berlusconi e lì decidono, quindi le tre schede bianche, poi do il nome, dai, è una classica cosa per sceglierla tra di loro, no? E poi... Ma è ovvio, ma che mistero c'è? Cioè, ho capito, Libero, beh, insomma... Grazie. No, è ovvio, in teoria c'è tutta sta, allora, manfrina, ricordo, uno slegato. Ricordo a te che non ricordi le questioni fondamentali. Eccolo. Che servono 672 voti di grandi elettori all'inizio, fino e non ci saranno alle prime, mai. Che non ci saranno mai, perché Renzi giustamente dice io voto scheda bianca. Dopodiché ne servono 505. Esatto. Tu sai quanti voti dispone solo Matteo Renzi col Partito Democratico e i satelliti socialisti? No, aspetta, solo 476. Se non ci sono i franchi tiratori. Quanti potranno essere? 40, 60, 80, 100, 101. Berlusconi c'ha 143 voti. Eccola, l'inciucione. I centristi di Scelta Civica, NCD e compagnia ce l'hanno altri 124. È ovvio che al quarto scrutinio Renzi dice Alessandro Milan Presidente della Repubblica, ma se si è messo d'accordo con Berlusconi, Alessandro Milan Presidente della Repubblica, poi deve decadere perché non ha l'età. Esatto, però potrei dire forza Milan, cioè, però ti giuro che do in esclusiva la prima intervista alla Croce Quotidiana. Alla Croce Quotidiana. Allora, grazie, però, che non mi metti a pagina 2. Mi metti a pagina 1. Vabbè, meno male. Vabbè, ma chi sarà sto nome? Chicco Testa? Chi è che uscirà il coniglio dal cilindro di Renzi? Deve uscire uno che ha tre caratteristiche per Renzi. La prima, che deve non creare franchi tiratori dentro il suo partito. Sì. Due, che deve pescare voti anche da altre parti, evidentemente in Alfano e Berlusconi, quindi non deve essere sgradito a loro, perché altrimenti non ci sono i numeri. Terzo, deve avere delle caratteristiche per cui i grillini non possano dire avete nominato un venduto, un ladro, un vecchio arnese, eccetera, eccetera. Cioè, mettere insieme le tre cose non è facile, qualsiasi nome si guardi, capito? Soprattutto la terza, voglio dire, qualsiasi nome dici, ma quello nel 93 ha fatto, cioè dovresti mettere... So che ci sono redazioni di giornali, in particolare di uno di cui non farai il nome, in cui gli archivisti sono al lavoro, su tutti i possibili candidati, per trovare quante volte la moglie o il marito hanno frequentato un posto non particolarmente perfetto, se la macchina che hanno ha pagato il bollo tutti gli anni. Ma tu sei abbonato, sei abbonato al Fatto Quotidiano, per caso? No, io non sono abbonato e lo leggo veramente molto poco, ma insomma, ecco, di questo sto parlando. Il carrello della spesa, il carrello IKEA, il marito indagato, anzi a processo. 12 anni fa uno di loro non ha pagato il canone della TV. Marione, così non ne usciamo. No, del Fatto Quotidiano voglio tanto bene che oggi scrivo di nuovo di me, ovviamente insultando l'altro ieri pure, e perché? Della croce, perché non gli piace la croce, quindi sono arrabbiato. Però quindi salutiamo i colleghi del Fatto Quotidiano, a cui noi vogliamo comunque bene, anche se ci trattano male. Siamo che sei cristiano. Siamo cristiani. Alta guancia, però ricordo sempre che sono due le guance, poi mi incazzo prima o poi. E poi adesso c'è il pugno, c'è il papagno, poi esatto. Quindi. Secondo me, io su una cosa non condivido l'analisi di Chicco, non credo che Renzi abbia particolare paura dei franchi tiratori, anzi, lui sta creando le condizioni per la spaccatura, che non vede l'ora di liberarsi. No, non ho detto che ha paura. Non li vuole, cioè vuole che 80-100 se ne vanno, anzi se ci sono 100 voti in meno servirà per fare la resa dei conti poi nel PD, tanto non i numeri sono tali che pure con 100 francotiratori non vanno da nessuna parte. Oggi convincerà, proverà a convincere Berlusconi sul nome di Sergio Mattarella, che è il pole position, è quello che vorrebbe Renzi, anche perché Sergio Mattarella ha una caratteristica, diciamo, di non ricerca di visibilità, è una sua tradizione, diciamo, proprio come politico, ed è una delle cose che Renzi in questo momento tiene. Vuole un presidente troppo visibile, Sergio Mattarella è proprio il suo identikit. Se non riesce a convincere Berlusconi su Renzo Mattarella, secondo me potrebbe esserci una sorpresa. Io penso che Franceschini avrebbe i numeri per essere convincente presso Berlusconi, ma paradossalmente ha un problema dentro il gruppo del Partito Democratico. Il gruppo del PD, non Correnzi. Il nome, secondo me, a sorpresa di una donna potrebbe essere quello di Linda Lanzillotta. Chicco Testa l'ha bocciata, ha detto è una persona molto in gamba ed è un'amica, ma non credo che... Vabbè, ma fatevi una previsione, dai, perché sennò entriamo anche noi nel toto nomi. Ma ad esempio, diciamolo chiaramente, sorpresa, Giuliano Amato sì o no? Guarda che Amato mette bene d'accordo Berlusconi e Renzi, Giuliano. Ma la caratteristica, diceva Chicco, dell'essere, diciamo, sì, non è amatissimo, amatissimo, ecco, dalla gente, forse. Quella è una caratteristica. Ma un nome a sorpresa farei quello di Chiamparino, se dovessi fare un Chiamparino. Poi c'è anche Fassino, leggo sui giornali. Vabbè, ma insomma ci stiamo esercitando. Esercizio inutile. Renzi già lo sa. Oggi va da Berlusconi e dice: Mattarella gli sta bene, secondo me Mattarella per un problema anche di legge Vammini. E Berlusconi dice di no. Cioè, lui già ha la carta di riserva che metterà sul tavolo, e quello sarà il presidente. Vabbè, chiudiamo con quello che è successo ieri a Quinta Colonna, Paolo Del Debbio con Daniela Santanchè, quella che ha fatto il governo con Tsipras, in pratica, se l'ho capita bene, che così ha battagliato così con chi? Con dei musulmani, Onorevole, se comincia con questi aggettivi, non ci sto, Scusa? Posso mandarla a fare in culo? Posso mandare Chicco Testa è stato gentile, però ha chiesto il permesso. Marione ha chiesto. A me sta cosa che fanno nei confronti della Santanchè ogni volta mi fa molto arrabbiare. Tantissime trasmissioni vado con lei a parlare di questi temi, e vedere molti musulmani avere nei confronti di una donna questo tipo di atteggiamento mi irrita molto. Quindi non ho nulla da spartire con la Santanchè da nessun punto di vista, ma proprio per difendere una donna che comunque ha coraggio e pone le sue opinioni, e io molto spesso non condivido, e sentirla insultata in quella maniera è brutto. Ma faceva era anche ridicolo il modo. Posso mandarla, vabbè, guardate che abitudine, lo fanno sempre, lo so. Comunque ricordate 334 3798 534, tra 10 secondi Mario Adinolfi mette giù, e se rispondete il titolo di pagina 5 della Croce Quotidiano di oggi, lui vi dà retta, e se no no. Vi devo salutare e vi ringrazio, Mario Adinolfi e Chicco Testa, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti. Siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo anche gli ospiti che avremo oggi. Oggi parleremo con Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, reinsediato sindaco dal TAR nel giro di 24 ore dopo che era dichiarato decaduto per una sentenza definitiva e poi non definitiva, comunque la sentenza che lo ha condannato e poi la legge Severino che è intervenuta, decaduto da sindaco, ma il TAR lo ha rimesso. Avremo anche Giorgio Mulè, direttore di Panorama, con lui per parlare non solo del suo caso, insomma, delle vicende politiche. Avremo ospite anche alle 8:35 l'ex ministro allo sviluppo economico del governo Monti, Corrado Passera, che riparte fondando un partito. Voi dite c'è bisogno di un altro partito, lo chiederemo a lui. Questo più avanti, ora i giornali. In questo martedì 27 gennaio, intanto i titoli sono quasi tutti declinati alla dopo vittoria di Tsipras, che ha già giurato al governo. E vedremo con chi, perché qui c'è certamente da discutere. Tsipras al governo con la destra, questo è il titolo di apertura del Sole. Mercati, euro e spread tengono. Corriere della Sera, spiragli per Tsipras in Europa. Repubblica, Tsipras giura al governo con la destra, Europa pronta a trattare con la Grecia. La Stampa, Tsipras spiazza l'Europa, al governo in Grecia con la destra antirigore. Come vedete nel titolo, nei titoli c'è appunto questa sorpresa, cioè con chi ha fatto il governo Tsipras. Il comunista greco ci ruba 24 miliardi, questo è il titolo un po' inquietante del giornale di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano, Tsipras 30 giorni per vivere o morire di debiti e di troica. Per la verità il Fatto ha anche un altro titolo principale sul Quirinale, la mossa del Grillo, mail al PD per i nomi del Colle. Sul Quirinale apre anche Libero. Oggi si decide chi va sul Colle, perché oggi c'è un incontro in serata tra Renzi e Berlusconi. Il Messaggero torna su Tsipras, governa, l'Europa tratta. Questo è il titolo di prima pagina. Anche il Manifesto un po' stupito dall'alleanza di governo di Tsipras. Radical shock. Tsipras riceve l'incarico per il nuovo governo, rompe con la tradizione, niente baciamani alla Chiesa ortodossa, niente invece fa l'omaggio ai partigiani. L'alleanza però con la destra fa discutere, ma non cambia la sostanza. Vedremo dopo nella lettura dei giornali. Intanto, appunto, come detto, ne avremo ospite Vincenzo De Luca, sindaco reinsediato a Salerno, come testimoniano i vari titoli di giornali. Il TAR rimette in sella il sindaco De Luca. Tra l'altro il Corriere della Sera racconta, così come Repubblica e La Stampa, che in realtà ci sono delle trattative in corso, perché De Luca vuole candidarsi alle primarie per la regione Campania per il centro-sinistra. Pare che Renzi non gradisca più di tanto. E allora ecco per esempio il retroscena interessante di Jacopo Iacoboni a pagina 16 della Stampa a raccontare Malotti tratta per farlo ritirare. Luca Lotti è sottosegretario di Renzi, giudicato molto potente, ed è lui che starebbe tentando di trattare con Vincenzo De Luca per farlo recedere dalla volontà di candidarsi alle primarie del centro-sinistra. De Luca dice: io non cedo di nulla, ma racconta La Stampa che potrebbe un incarico di sottogoverno, magari da sottosegretario, rivelarsi interessante e meno esposto per De Luca. Cosa succederebbe però se De Luca davvero accettasse di ritirarsi, contrariamente a ciò che dirà fino all'ultimo secondo? Ieri e fino ad oggi è in corso una direzione telematica del PD campano che dovrebbe rinviare ancora le primarie previste per l'1 febbraio al 22 febbraio. Saremmo alla terza data. Insomma, questa vicenda di De Luca sta in qualche modo creando un po' di scompiglio all'interno del centro-sinistra. Lo stesso De Luca, che ha ringraziato il TAR per la celerità effettivamente pochissime ore da quando è stato dichiarato decaduto il provvedimento cautelare che sospende la sospensiva sindaco e quindi di fatto lo rimette in sella a capo della città di Salerno. Trovate i dettagli ovviamente a pagina 15 del Corriere della Sera, così come su tutti gli altri giornali. Ma per quel che riguarda la cronaca giudiziaria, beh, tiene banco anche la vicenda di Schettino. Avete sentito, c'è la requisitoria dei PM che hanno chiesto per lui 26 anni di carcere. Nel dettaglio sono 9 anni per il naufragio, 14 per omicidio colposo e lesioni colpose, 3 anni per abbandono nave e persone incapaci, 3 mesi di arresto per omesse comunicazioni alle autorità marittime. C'è anche questa definizione incauto idiota. C'è anche, effettivamente qui davvero secondo me i magistrati potevano risparmiarselo, l'appello a Dio, Dio ne abbia pietà, perché noi non possiamo averne alcuna, insomma, forse magari lasciamo Dio fuori dalle aule dei tribunali, sarebbe cosa opportuna, ma siamo pur sempre in Italia. E c'è soprattutto la reazione di Schettino, tutti i giornali raccontano la reazione di Schettino che, come scrive il Corriere della Sera, effettivamente ci sono cose che succedono solo a Schettino, cioè solo Schettino poteva reagire dicendo io non scappo. Ma come? Ma vabbè, insomma, perché è stato richiesto l'arresto per Schettino, cioè la procura ha detto attenzione, arrestatelo prima dell'eventuale condanna perché potrebbe fuggire. Per la verità lo stesso Schettino fa sapere attraverso Repubblica, attraverso il suo avvocato, ma insomma già avevano chiesto il mio arresto e la procura aveva detto di no, cioè meglio il tribunale, anche la Cassazione le aveva dato torto, la procura voleva arrestarmi, la Cassazione ha dato torto. Ora ci riprovano, ma che faccio? Devo marcire in cella, ma io non fuggo. Beh, questa è la frase di Schettino, memorabile probabilmente in questo momento della sua vicenda processuale. E poi ci sono anche altre frasi strappate a lui dall'avvocato attraverso la voce dell'avvocato, e che sono: mo Pacciani, peggio di Pacciani, così a Repubblica, trattato da Pacciani, se mi vogliono in cella vado a consegnarmi, vogliono darmi l'ergastolo, la pena di morte, a chi mi devo consegnare, a quale carcere devo bussare, sono peggio di Pacciani, mo sono l'unico mostro. Ma io non scappo, il mostro non fugge, lo potete dire. E continuo a sperare nella giustizia. E quanti anni devo prendere? Io, il mostro, 26, 30, 35, l'ergastolo, la pena di morte? Questa è la reazione anche umanamente comprensibile di Schettino, il comandante. La potete leggere su tutti i giornali. A proposito di cronache giudiziarie, vi ricordate la vicenda che avevamo raccontato la scorsa settimana di un padre per il quale è stato chiesto 9 mesi di carcere perché trattava le figlie male, maltrattamenti, dicendo loro siete grasse, obbligandole a fare sport. Ebbene, la condanna è arrivata. Condannato a 9 mesi, come racconta la stampa che aveva fatto emergere la vicenda di questo papà di Torino, obbligava le figlie a sciare, padre condannato a 9 mesi. Certo, messa così, obbligava le figlie a sciare. In realtà, secondo l'accusa, insomma, le obbligava a fare sport in maniera ossessiva perché le riteneva grasse. Lui dice semplicemente ho visto alcune foto su Facebook. Erano lì per locali, sempre col bicchiere in mano, e quindi pensavo che non facessero una vita sana, volevo educarle e farle certamente anche dimagrire perché pensavo che avessero uno stile di vita discutibile. Queste alcune frasi rilasciate alla stampa, mentre su Repubblica siete grasse, fate sport, padre condannato, viene intervistata la donna, la ex moglie da cui è partita la denuncia, Federica Cravero, si racconta anche evidentemente di una separazione un po' turbolenta. Denunciarlo era il solo modo per liberare le mie bambine. Questo è il titolo dell'intervista di questa donna che dice: abbiamo impiegato anni a ricostruirci una vita, a farci forza. Giornate come queste ci fanno vacillare, sono dolorose da affrontare. La nostra paura era non essere credute. Da articoli pubblicati sembra che il mio ex marito sia stato condannato per accuse inconsistenti, quasi ridicole. Si parla di diete e di sport, ma non si può immaginare che venga inflitta una pena di questo tipo per un episodio sporadico. Dietro c'era molto altro ed evidentemente il giudice ha capito il tormento che era stato patito. Rifarei tutto quello che ho fatto, sporgendo denuncia contro il mio ex marito, ora condannato a 9 mesi di carcere. Vabbè, è chiaro che giudicare dalla lettura dei giornali non è facile, bisognerebbe veramente conoscere la vicenda in maniera profonda. Ma siamo sempre alla vicenda di Cremona. Ricordate, 10 giorni fa Casa Pound manda in fin di vita con una aggressione a sprangate un esponente del centro sociale Dordoni di Cremona. E sabato scorso c'è stata la manifestazione dei centri sociali con 500.000 euro di danni alla città di Cremona. E poi c'è questo concerto giovedì dei 99 Posse, preannunciato da questo post di Zulu, il leader dei 99 Posse, no? Che ha scritto su Facebook: onore a chi lotta, più bastoni e meno tastiere. Ora, che si fa di questo concerto? Il sindaco di Cremona voleva non dare l'autorizzazione. Il prefetto e il questore hanno detto sì all'autorizzazione al concerto, ma suonino nel centro sociale. Il leader della banda Zulu dice: avremmo suonato lo stesso, è uno spazio occupato. Comunque è vero, è stato un post infelice, infelice, ha detto, ma non aveva alcun intento provocatorio, questo sul Corriere. Ed è qui che sul Corriere, il Corriere va ad ascoltare chi? Henry De Luca, colui che tra l'altro domani, scrive lo stesso Corriere, andrà a processo per le frasi sulla TAV, le famose frasi in cui, secondo la procura, istigava alla violenza, istigazione a delinquere, perché aveva detto che si possono, era giusto tranciare, insomma, sabotare la TAV. E allora è proprio qui, nell'intervista a Henry De Luca, che finiscono le nostre mani, che vanno sul volante. Mi raccomando, prima di leggere un'intervista del genere, sentite Marco Imarisio, sente Henry De Luca. Il titolo: sono la giusta reazione, quelle frasi di Zulu, a un'aggressione fascista. Per cui si crea questo cortocircuito. Lo stesso Zulu prende un po' le distanze, dice un post esagerato, mentre Henry De Luca dice: no no, frasi giuste, giuste, a un'aggressione fascista si risponde così. Se dicessi che condivido la frase dei 99 Posse, dovrei stare lì e magari avrei potuto andarci. Comprendo la loro rabbia, dice De Luca, e tornando al nostro discorso, escludo che si tratti di una forma di istigazione. Ma allora, scusi De Luca, la violenza può ancora essere uno strumento politico? Sempre, risponde De Luca, sempre! Da una parte e dall'altra. Spaccare la testa di un militante è violenza criminale e politica, come l'assalto alla polizia che non lo ha impedito, come la militarizzazione della Val di Susa. Esiste una violenza pubblica che scatena reazioni inevitabili. Alessandro Milan, tartaruga ninja in informazione. Vabbè, ma uno dei più straordinari questi, forse l'ascoltatore più piccolo di 24 Mattino. Un grosso abbraccio ovviamente. Sui giornali che cosa c'è molto? C'è molto della vicenda greca sempre, no? La vittoria di Tsipras e la formazione di un governo con il leader di un partito della destra nazionalista greca in nome dell'anti-europeismo. Questa è l'alleanza strana che viene fuori dal governo greco. Nasce il governo antitroica. Intanto vi segnalo sul Sole 24 Ore, ci sono 8 pagine proprio su il governo greco e che cosa questo può comportare come reazioni per quel che riguarda i rapporti con l'Unione Europea. Ma soprattutto, appunto, molti si concentrano su questa alleanza strana. Maria Serena Natale racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, chi sia Panos Kamenos, 49 anni, leader di questa coalizione, di questo partito che si chiama ANEL, è un acronimo. ANEL vuol dire Greci Indipendenti. Uno che spesso è ritratto su uno yacht e non c'è nulla di male. Uno che è per la Chiesa ortodossa, invece ieri per la prima volta Tsipras ha giurato senza il bacio, no? E l'omaggio alla Chiesa greca. È uno, questo signore, che è accusato anche di evasione fiscale, racconta il Corriere della Sera. È uno anti-immigrati, anti diritti civili o comunque con posizioni ben diverse rispetto a quello della sinistra di Syriza. Insomma, molto a destra, i greci indipendenti, scrive il Corriere, paragonati allo UKIP del Regno Unito o paragonati anche alla Lega in Italia. Per esempio, leggete il ciò che scrive Sara Menafra, pagina 2 del Messaggero. Nazionalisti e contro l'immigrazione, gli strani alleati di Alexis Tsipras. Chi sono? I militanti di ANEL. Propugnano la diffusione dei valori della Chiesa ortodossa, sono contrari alla cittadinanza per gli immigrati, chiedono misure pesanti contro i senza tetto che occupano le case disabitate, ma il loro leader Kamenos è anche accusato di posizioni razziste, omofobe, antisemite o semplicemente sui generis. Per esempio, per citare la più nota, Kamenos presentò di recente un'interrogazione parlamentare costringendo l'aeronautica greca a precisare sul fenomeno delle scie chimiche degli aerei. Crede pure alle scie chimiche. E auguri al nuovo governo greco. Insomma, pure le scie chimiche, ecco. Vabbè, questo è lo strano alleato di Tsipras. In nome di che cosa? Della lotta al rigore europeista. Questa è la coalizione che è stata creata. Pare che questo Kamenos spunti ora a diventare ministro alla difesa del governo greco. Staremo a vedere come staremo a vedere quello che succede con i rapporti con l'Unione Europea e soprattutto col Fondo Monetario Internazionale per quel che riguarda il debito greco. È interessante a questo punto l'intervista che Repubblica propone di Christine Lagarde, che è direttrice del Fondo Monetario, rilasciata al quotidiano francese Le Monde, ma riproposta da Repubblica a pagina 4. Ebbene, Christine Lagarde dice: è fuori di discussione accettare la cancellazione del debito greco. Semmai è una questione, intanto perché è una questione di equità tra paesi europei. Semmai però, dice Lagarde, ci sono diverse ipotesi sul campo, senza voler entrare però in ulteriori dettagli. Dice: il Fondo Monetario è un creditore privilegiato da 70 anni, non vedo perché la Grecia dovrebbe cambiare le cose, ci sono però diverse ipotesi di cui discuteremo con le autorità greche e i nostri partner europei, ma su queste ipotesi per il momento non voglio dire niente di più. Tra l'altro, racconta sempre Repubblica, sapete la Grecia e il governo greco con chi dovrà trattare per magari dilazionare il debito pubblico col Fondo Monetario? Chi è la persona che si occupa di quel settore dell'Europa? Carlo Cottarelli, ve lo ricordate? Colui che è stato chiamato dal Fondo Monetario per fare il commissario spending review da Enrico Letta e poi, insomma, ha finito il lavoro, magari anche un po' bruscamente, lasciato andare e tornare al Fondo Monetario da Renzi. È proprio nella posizione di gestire il dossier greco e quindi ritornerà in scena Carlo Cottarelli. Vabbè, lasciamo la Grecia, veniamo a cose italiane, dove si sprecano, e si può usare giusto questo verbo, sprecano le carte, i fogli di carta e gli articoli sulla corsa al Quirinale. Allora, la linea di Renzi è dettata. Prime tre votazioni, quando ci vuole una maggioranza molto ampia, molto qualificata, scheda bianca perché tanto i numeri non ci sono, e poi sabato mattina la quarta votazione, quando servono 505 voti per eleggere il nome che succederà a Giorgio Napolitano, zac, tiro fuori il nome, forse sabato mattina stesso, e quello è. Questa è la linea di Renzi, nonostante, come scriva il Fatto Quotidiano in prima pagina, il tentativo disperato di Grillo, la mossa di Grillo, una mail a tutti i deputati del PD a dire: caro deputato, facci sapere le tue preferenze, noi le faremo votare ai nostri militanti. Ma credo che non sortirà effetto. Tra l'altro, come raccontano i giornali, Grillo ha a che fare con un altro problemuccio, e cioè che oggi 10 deputati annunceranno, come è preannunciato da tutti i giornali, annunceranno lasciamo il movimento. Tra questi ci sono Walter Rizzetto, leggo su Repubblica, ma anche Aris Prodani, Marco Baldassarre, Eleonora Bechi, Stancredi Turco, Jessica Rostellato e probabilmente Samuele Segoni, Mara Mucci, Tiziana Ciprini, Silvia Benedetti. Questi sono citati da Repubblica a pagina 13, dovrebbero lasciare oggi il movimento. E nonostante le resistenze di chi dice ma insomma facendo così forse allora vuol dire che il nome verrà fuori dal patto del Nazareno, beh oggi Libero la mette proprio così: oggi il Cavaliere può decidere chi va al Quirinale, stasera si rivedono Renzi e Berlusconi e secondo questo faccia a faccia si potrà decidere il nome del Quirinale. Chi sale, chi scende? Secondo la stampa sale Chiamparino. Berlusconi ragiona sull'ipotesi Chiamparino. Secondo il Corriere ci sono sempre i soliti nomi: Mattarella, Veltroni, Fassino, forse anche Chiamparino. Per Repubblica invece i tre nomi sono Amato, Mattarella e Fassino, ma poi c'è anche una lista di, così dire, nomi coperti, però non Sabino Cassese, Ugo De Siervo, Gentiloni, Veltroni, Finocchiaro. Per la verità anche Chiamparino, Repubblica dice no, la stampa dice sì, insomma come al solito. Grandi chiacchiere su chi sarà. Noi abbiamo lanciato ufficialmente la candidatura non di Mauro Meazza, ma vera, sincera, perché Mauro Meazza non ce la farà, secondo me. Intanto Mauro, buongiorno. Ma buongiorno, la buongiorno. Candidatura, e ti prego di appoggiarla anche tu se conosci i grandi elettori, votate Vincino. Qui da 24 mattino chiediamo che almeno alle prime tre votazioni ci siano dei voti per Vincino, il grande Vincino. Mauro, buongiorno Alessandro, vediamoci magari stasera anche noi e sì, discutiamo di questa cosa qua un attimo. No, Vincino. Fatto anche noi di via Monterosa. Però stasera, perché ho un sacco di cose da leggere, innanzitutto perché sappi che giovedì c'è Telefisco, adesso tu ti preoccupi di questa cosa, giovedì queste prime votazioni, ma giovedì ci sarà Telefisco. Poi perché abbiamo oggi una bussola per il risparmiatore post voto in Grecia, molto importante, e poi devo fare un attimo di qui Radio Fisco, perché abbiamo il dettaglio delle retribuzioni convenzionali. So che tu non capisci, ma non è importante, non capisco neanche io, però lo dico. Come sai, chi doveva capire? Esatto, ha capito. Invece puoi capire molto bene, oggi parliamo anche di condominio, è martedì, parliamo di condominio, l'uso delle parti comuni, che sai che tu lasci sempre le cose lì nel cortile e dopo gli altri si indispettiscono. Guarda, nel cortile mi hanno appena smontato mezza bicicletta, come allora, ho testimoniato con una foto su Twitter. Allora vai a leggere subito le pagine che parlano di condominio, la pagina che parla di condominio oggi sul Sole 24 Ore. Ritrovo la ruota così che mi hanno tolto? Non lo so, però poi intanto ti metti in regola, ti metti a modino con le questioni legali. E poi ti voglio dire, ma lo sai che hanno un crollo nelle vendite delle Barbie? Ne parliamo oggi in finanza ai mercati. Non dirlo a mia mito, figlia, insomma, c'è stato un calo deciso, e c'è un profit warning, ma queste sono cose di finanza, se leggi le pagine di finanza trovi anche questa notizia, oltre ad esempio il record per la raccolta dei fondi comuni nell'anno 2014, perché chiaramente c'è un eccesso di liquidità in qualche modo e poca nell'economia reale, però questo dispiace. Va bene, allora mi sembra che stasera ci sia la Champions League, torna la Champions League. Torna. Non mi sembrava di no, vabbè, comunque insomma stasera poi ci vediamo, discutiamo della candidatura. No, appunto stasera, scusa, avrei un impegno stasera. Vabbè, facciamo un po' prima dell'impegno, vabbè. Vediamo comunque, poi ne parliamo bene domani. Ricordati che giovedì succede che cosa? Oh, ecco, temevo che tu dicessi cose tipo di altra natura, di tipo politico. Eleggono il Presidente della Repubblica. No, ma sai che non lo leggono, tu l'hai detto prima, c'è la bianca, allora vieni a Telefisco che invece lì non c'è scheda bianca, lì ci sono cose molto importanti. This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Oh, è tornato il nostro caro George, che ho letto pare abbia qualche problemuccio dopo pochi mesi di matrimonio con Amal, eh? Gran notizione che ieri circolava su tutti i siti di gossip. Ebbene sì, ebbene sì. Oh, devo dare questa comunicazione perché so che molti di voi si sono appena svegliati e prima di salutare il marito o la moglie vanno subito a correre su Facebook per salutare l'amante. Ma sappiate, mi dicono, che c'è Facebook down, crollato in tutto il mondo, famiglie disperate, gente che non sa più cosa fare, c'è Facebook tutto bloccato, quindi non contattateci per il momento su Facebook, magari scriveteci su Twitter, 24 Mattino, questo è il nostro profilo. Comunque, tornando alle questioni che raccontano i giornali, c'è da dire che sempre sulla politica, appunto, siamo tutti in attesa questa settimana a capire se la strategia del Premier Renzi porterà risultati giusti, e cioè prime tre sedute con schede bianche, poi alla quarta votazione, quando si abbassa il quorum a 505 voti necessari, e già Renzi nel PD ne ha 470 e rotti. Certo, poi ci saranno forse i franchi tiratori, ma insomma potrebbe venire in soccorso molti di Forza Italia. Insomma, alla quarta votazione dovremmo farci, dunque sabato mattina è prevista la quarta votazione. Mi raccomando, nuovo appello ai grandi elettori, chiunque voglia votare nelle prime tre votazioni, Vincino è graditissimo alla nostra redazione, alla redazione di 24 Mattino. Noi confidiamo tantissimo in voi, cari parlamentari. Vincino, ricordate, è semplice da scrivere. Veniamo a qualche notizia di cronaca. La prima notizia di cronaca che vorrei leggere è quella che riguarda il delitto di Yara Gambirasio. Ve lo ricordate? C'è una, ecco, forse svolta, no, ma un punto a favore dell'unico imputato, cioè Bossetti, Giuseppe Bossetti. Come racconta per esempio il Messaggero in prima pagina, non attribuibile a Bossetti una traccia di DNA. Questa è la nuova perizia che riapre il giallo sulla morte di Yara. Ne racconta Claudia Guasco a pagina 16, forse non rappresenta la svolta processuale, di sicuro però è un punto a favore della difesa per fare uscire Massimo Giuseppe Bossetti dalla cella di Bergamo, dove era rinchiuso dal 16 giugno, accusato di aver ucciso con crudeltà Yara Gambirasio. Una relazione firmata da Carlo Previdere, ricercatore del laboratorio di genetica forense a Pavia, chiamato dal PM di Bergamo Letizia Ruggeri ad analizzare la presenza di peli e capelli sul corpo della vittima, e in questa analisi del DNA mitocondriale, da una tabella di questa analisi si evince come il DNA di Bossetti non coincida con quello di ignoto 1, così è stato definito l'assassino di Yara Gambirasio. E quindi per i difensori di Bossetti questa potrebbe essere certamente un primo punto, ecco, per chiedere quantomeno la scarcerazione del loro assistito che è ancora in carcere da allora. Devo dire che per quel che riguarda la cronaca, i giornali raccontano anche quella che è stata una visita in un campo dove sono tenuti dei Rom. È Avvenire che secondo me soprattutto dedica una pagina, anche un richiamo in prima pagina, pagina 12, poi c'è l'articolo, a quella che è considerata l'ultima vergogna di Roma, l'ultima vergogna capitale. È un viaggio nel centro raccolta Rom, definito un vero e proprio ghetto, come racconta Luca Liverani a pagina 12. 300 persone alloggiate dentro stanze senza finestre in un capannone industriale, stipati anche in 7 per stanza. Molti sono minori. standard igienico-sanitari fuori legge, per i quali il Campidoglio nel 2014 ha sborsato 2.623.000 euro, ovvero 759 euro a testa per queste persone al mese. Benvenuti al centro raccolta Rom di via Visso 14, battezzata pomposamente Best House Rom, cioè la casa migliore. È un mostro, così dice il neoassessore ai servizi sociali di Roma, Francesca Danese, un mostro dietro le quali si è insediato il malaffare, va chiuso entro un paio di mesi. Sono andati a vedere come vivono i Rom anche il senatore Luigi Manconi, che è presidente della Commissione diritti umani al Senato. Sono andati alcuni giornalisti che però non sono potuti entrare, sono entrati solo deputati, appunto, e a raccontare come in ogni stanza vivano famiglie, anche 7 persone in 12 metri quadri. Vi rendete conto? Cioè 1,8 metri quadri a testa. Ecco, di questo stiamo parlando. L'ennesima vergogna capitale. Lo leggete su Avvenire a pagina 12, questo centro raccolta Rom, dove 7 persone arrivano a vivere in 12 metri quadrati. Non passa giorno senza che questo Papa stupisca. Oggi i giornali raccontano tutti dell'ultima vicenda. È una vicenda sulla quale non c'è commento della Santa Sede, come succede quando ci sono delle udienze private che il Papa dà, che il Papa concede, ma l'ultima, una delle ultime udienze è stata questa. Il Papa riceve in Vaticano un transessuale spagnolo con la fidanzata. Spagnolo, 48 anni, è nato donna, aveva scritto al Papa dicendo «mi sento emarginato dalla Chiesa dopo il cambio di sesso», il pontefice gli ha telefonato 2 volte, poi sabato scorso la visita privata a Santa Marta. Racconta di aver chiesto al Papa se così come oggi ci sarebbe stato qualche angolo per lui nella casa di Dio e Francesco mi ha abbracciato. Questa è la storia di Diego Neri Lejarraga, 48 anni, nato bambina, ma subito capisce da piccolo, da adolescente, il mio carcere era un corpo che non corrispondeva per nulla a ciò che sentivo di essere. Nel frattempo ha cambiato sesso, ha scritto al Papa che l'ha chiamato 2 volte, ora l'ha ricevuto e chiaramente è notizia che finisce su tutti i giornali. Il Papa che riceve un transessuale all'udienza privata con la fidanzata. Ma siamo al momento della carta costa. A me dispiace, ma Elvira Serra, dobbiamo conoscerci, abbracciarci. Ma com'è possibile? Un'intera pagina del Corriere della Sera, hai vinto anche ieri. Dove il selfie è proibito? Dov'è che è proibito il selfie? In Iran. In Iran? Ma perché è proibito? È proibito il selfie in Iran. In Iran? Tutto l'Iran? No, non lo so, devo approfondire, devo leggere questo articolo. Nel museo Van Gogh, sulla spiaggia di Antibes. Ma perché? Perché è vietato il selfie? Lì hanno vietato il selfie, vabbè, insomma, comunque ricordiamo, anzi come ci ricorda il grande Bordin di Radio Radicale, che la carta. Perché come dice un simpatico concorrente, la carta costa. 24 mattino. Quando sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come abbiamo sentito, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dopo che è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio e dunque dichiarato decaduto in base alla legge Severino, che prevede la decadenza degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità, cioè se sono condannati per un reato contro la pubblica amministrazione, è stato poi nel giro di poco tempo il rimesso di fatto nella carica di primo cittadino dal TAR, che dovrà discutere, ma intanto ha emesso una sospensiva della sospensione a sindaco. Vincenzo De Luca, buongiorno intanto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta, sa che oggi il Corriere della Sera se lo chiede così, ma è il trionfo delle norme, è il trionfo della legge o il trionfo del ridicolo? Cioè in Italia non si capisce mai, lei come la vedrebbe? È il trionfo della demenzialità di un paese che muore di ipocrisia e di burocratismo. Innanzitutto l'oggetto della condanna. Sì. La condanna consiste in questo: avere utilizzato 8 anni fa l'espressione project manager, non prevista dalla legge italiana ma neanche esclusa, al posto dell'espressione coordinatore del gruppo di lavoro. Perché lei nominò un ex collaboratore come project manager. Nell'ambito di un gruppo di lavoro per realizzare un termovalorizzatore, cosa per la quale già avrebbero dovuto darmi una medaglia al valore per essermi assunto quella responsabilità, per la verità. Nell'ambito del gruppo di lavoro ho nominato un coordinatore del gruppo di lavoro chiamandolo project manager anziché coordinatore, ovviamente su proposta del responsabile del procedimento, non mio. Vabbè, però ora, questa è una vicenda processuale. Il problema è questo, io credo che iniziative così sconcertanti siano innanzitutto un danno per la magistratura seria. I magistrati seri sono la stragrande maggioranza di questo paese, che sanno cos'è uno Stato di diritto e hanno anche rispetto per il senso delle istituzioni. Siamo in Italia, in un paese nel quale uno che faccia il sindaco davvero, un abuso d'ufficio lo prende comunque, se no non ha mai fatto il sindaco. Sì. Abbiamo ormai una situazione nella quale c'è una paura generalizzata della firma. Nessuno firma più niente, c'è un tale groviglio burocratico amministrativo per cui veramente ormai nessuno si assume una responsabilità, il paese rimane paralizzato. Allora capiamoci, io sono per buttare fuori i ladri dalla pubblica amministrazione senza pietà, ma sono anche per garantire la serenità di vita e di lavoro alle persone per bene, altrimenti qui fra un anno di persone per bene nelle istituzioni non ne avremo più neanche una. Però le chiedo una cosa, sindaco, perché lei lo definisce trionfo della demenzialità? Intanto sarà contento di essere al momento ripristinato in una posizione dove per la verità lei non aveva dimostrato di voler recedere neanche per mezzo minuto. Assolutamente sì, ma lei pensa che ci sia una sola persona di buon senso che possa non ritenere sconcertante un pronunciamento del genere? Aver utilizzato l'espressione project manager, utilizzata peraltro da tutti, Ferrovie dello Stato, ANAS, Università, Regioni, anziché coordinatore del gruppo di lavoro. Allora ci sono due problemi nel merito che vanno affrontati rapidamente. Primo, rapporto in Italia fra diritto amministrativo e penale. Tu puoi anche sbagliare una procedura amministrativa, una variante urbanistica, ma questo non può essere materia di giustizia penale. E la figura di reato dell'abuso d'ufficio è esattamente lo strumento per passare troppe volte dal piano amministrativo al piano penale. La seconda questione è quella che riguarda l'uguaglianza del diritto in Italia. Sì. Ma le pare possibile e le pare uno Stato serio quello nel quale un ministro non ha conseguenze, un parlamentare non ha conseguenze, un sindaco per un abuso d'ufficio in primo grado viene sospeso? Ma che razza di paese è questo? Allora guardi, sindaco, la facciamo un po' arrabbiare adesso, no? Intanto voglio salutare Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. No, la facciamo arrabbiare perché il paragone che faccio, so che è il paragone che il sindaco al quale il sindaco guarda con maggiore rabbia forse, no? Però Mulè, la questione è che a questo punto c'è uno, Berlusconi, che la legge Severino l'ha pagata, la sta pagando duramente, e invece non so, il sindaco De Luca, ma anche il sindaco De Magistris invece al momento no. Mulè, come giudicare tutta questa vicenda giudiziaria in Italia? Ma è il paradosso dei paradossi. Adesso tu hai fatto questa... hai messo sullo stesso piano il caso De Luca e il caso Berlusconi, sono due casi oggettivamente diversi, però sono simili nella loro idiozia, nel senso nell'idiozia di una legge che è retroattiva rispetto a quando è stata fatta dal Parlamento, e che nel caso del sindaco De Magistris e soprattutto nel caso del sindaco De Luca, che si difende nel merito e giudica demenziale il suo procedimento, però solleva il problema dei problemi, che è quello del giuna bulimia del diritto, che interpreta se stesso all'infinito e finisce col dare la totale incertezza. Nel caso di Luca noi abbiamo avuto una giustizia ad orologeria che ha funzionato benissimo, nel senso che magari Dio volesse che la giustizia in questo paese facesse pronunciare i TAR nel giro di 6 ore. Nei confronti di Berlusconi c'è stata una giustizia ad orologeria al contrario, con il Parlamento che ha ritenuto totalmente insussistente la causa di incostituzionalità della norma e ha dovuto aspettare che due tribunali amministrativi rivolgessero la stessa identica istanza alla Corte Costituzionale. Questo fa della giustizia non quella che dovrebbe essere, cioè un potere che viene amministrato per giudicare, ma un potere che inevitabilmente diventa da un sapore, anzi amaramente, politico di parte. Su questo, De Luca, il paragone con Berlusconi lei già in passato ne ha parlato. Le dà fastidio intanto essere accomunato da una stessa vicenda, nel senso una stessa legge Severino che si applica a lei e a Berlusconi? Mi faccio salutare intanto il direttore Mole cordialmente. Le voglio chiarire che ovviamente il paragone con l'onorevole Berlusconi è improprio. Berlusconi è stato condannato in via definitiva per un reato fiscale, io non sono condannato per niente, solo per due parole diverse. Detto questo, se c'è un problema che riguarda la retroattività nell'applicazione di una legge, beh, questo problema c'è e va affrontato, non è che siccome è implicato Berlusconi non lo si affronta, lo si valuta e possibilmente lo si valuta in tempi rapidi. Perché vede, io quando è arrivata questa sentenza ho detto che avrei aperto una battaglia di civiltà con le mie forze, per l'amor di Dio, con quello che posso, ma credo che sia arrivato il momento per affermare contemporaneamente due esigenze profonde di questo paese. La prima, esigenza di legalità, fuori ladri, su questo non c'è dubbio, abbiamo avuto esempi devastanti di disamministrazione, di ruberie, la gente è disgustata, ma dobbiamo anche dire con forza che è conclusa l'epoca nella quale una sentenza sgangherata poteva distruggere la vita di un essere umano, la sua dignità, bloccare percorsi politici, perché questo non è un paese civile, questa è la barbarie introdotta nella vita pubblica e tollerata da quelli che devono nascondersi con il finto moralismo per ritrovare una credibilità che non hanno. La legge Severino è stata approvata rapidamente per questo, perché bisognava rispondere all'ondata di indignazione. Ma secondo lei è sbagliata? Legata al caso Fiorito e compagnia. Ma è sbagliata totalmente? È una legge? No. Io credo che la legge Severino debba essere modificata, non cancellata. Su alcuni reati, ma alcuni, uno, due, credo che possa prevalere un principio di prudenza rispetto all'interesse della persona. Penso a problemi di mafia o problemi di terrorismo, ma insomma, possiamo fare una, due eccezioni, ma non è che possiamo cancellare il diritto o la presunzione di innocenza perché dobbiamo far finta che siamo più moralisti degli altri. Le chiedo questo, le chiedo sindaco, c'è un problema, a meno a leggere i giornali, sulle primarie. Lei vuole candidarsi, e l'ha già detto, non recede di un passo, alle primarie del centro-sinistra in Campania. Leggo sulla stampa che però Luca Lotto, sottosegretario di Renzi, starebbe trattando con lei per farla desistere da questa cosa. Non ho avuto mai modo di parlare con Lotti, ho avuto un suo MSS di solidarietà, punto. Non ho altro. Ma lei si candida oppure? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Giorgio nel Mulè, rispetto delle regole, le regole interne e le regole previste dalla legge. Giorgio Mulè, può essere un problema per il centro-sinistra la candidatura di De Luca? Perché sui giornali viene proposta così, perché? Ma il può io lo leverei, nel senso che la candidatura di De Luca è il problema che ha il PD in campagna. Ma perché? È ma nel perché PD De Luca, ricordiamo. De Luca l'avete sentito, a volte sembra sentire le gioiose parole che potrebbe pronunciare un politico di centrodestra, è come dire, è un politico irregolare all'interno del centrosinistra, irregolare perché è libero e dice cose anche sconvenienti, assai sconvenienti nei confronti del partito da cui proviene. Non a caso, e non rivelo nulla, De Luca stesso pensava a una lista autonoma rispetto al PD. E il PD celebra questo suo smarrimento nel rinviare per tre volte nell'arco di un mese queste primarie, che peraltro sono figlie di precedenti primarie finite nella Procura della Repubblica con uno scandalo di cui ancora oggi abbiamo il seguito. Il problema di De Luca, se il problema si tratta, è proprio quello, di stare all'interno di un partito che non ha né la maturità, che ha dimostrato anche ora oggi con le sue parole il sindaco De Luca, né soprattutto la lungimiranza di guardare non alla persona come ha fatto la sinistra, ad esempio con Berlusconi, ma di guardare al diritto e ai principi che giustamente non c'è. De Luca, Renzi l'ha sentito? No, la solidarietà l'ha avuta da Luca Lotti, ma secondo lei è vero che Renzi non la vuole come candidata alle primarie del centro-sinistra e farebbe di tutto pur di anche magari offrendole un posto al governo? È stato un fiorire di esegeti e di interpreti in queste ore. Io starei calmo, credo che Renzi abbia ben altri problemi per la testa in questo momento. Eleggiamo un Presidente della Repubblica, eleggiamone uno che non sia improbabile, ma sia una figura rispondente al dettato costituzionale, cioè interprete dell'Unità d'Italia. E poi scioglieremo anche questi piccoli problemi che riguardano la politica territoriale, piccolo relativamente, parliamo di mezza Italia quando parliamo della Campania e parliamo di alcune delle più grandi tragedie di questo paese, dalla Camorra alla Terra dei Fuochi, ai disastri che dobbiamo affrontare. Mi dica per concludere chi è il più improbabile che ha letto, secondo lei, di presidente che non vorrebbe vedere al Quirinale? E lei vuole che io mi suicidi rispondendo a questa domanda? No, di prima mattina. Vabbè, che devo fare? Io faccio le domande. Solo chiedo a Mulè allora, qual è il più improbabile, secondo te, direttore, dei nomi letti in questi giorni sui giornali? Ma penso che Sergio Mattarella a questo punto abbia davvero poche chance di potercela fare. Poi devo dire ancora una volta, in questo caso mi ha molto sorpreso che il partito di maggioranza relativa, il partito del Presidente del Consiglio, di cui il Presidente del Consiglio è segretario, esprima in un consesso così alto, importante e nobile, scheda bianca alle prime tre votazioni. Insomma, lascia, come dire, sbiancato un leader che invece ha fatto dello decisionismo il suo modo di vivere. Insomma, questo lascia molto per... Vedremo se è questa la strategia giusta che poi lo porterà sabato a dare il nome che verrà eletto, in questo caso la quarta votazione. Ma il problema è proprio quello, che il nome non è una lotteria che si pronuncia all'ultimo momento. Presidente della Repubblica, ma sarà frutto di incontri. Mi risulta che anche oggi Renzi e Berlusconi sì, si vedranno questa sera. Si vedranno, però, come dire, è la modalità che, come direbbe il poeta, ancora m'offende. Cioè, Presidente della Repubblica è un'istituzione su cui si devono riconoscere gli italiani, non Renzi e altri esponenti dei partiti. Quindi è un nome che andrebbe condiviso e messo in piazza oggi, per serietà. Mi sembra che questa serietà non solo non ci sia, ma si stia sfuggendo a gambe levate per rifare i giochini della vecchia politica. Ringrazio il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, così come il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Ci fermiamo 5 minuti. Tra 5 minuti, dopo la pubblicità, avremo ospite invece colui che vuole ritornare al centro dell'agone politico e per questo dice fondiamo un partito. Dopo essere stato ministro del governo Monti, ministro dello sviluppo economico, si tratta di Corrado Passera, sarà ai nostri microfoni tra 5 minuti. 24 mattino. Eccoci nuovamente in diretta e voglio salutare una persona che gli italiani hanno conosciuto soprattutto per la sua lunga carriera di banchiere, poi anche per una breve esperienza nel governo Monti come tecnico, come ministro allo sviluppo economico. È colui che ora lancia l'idea di un nuovo partito. Si tratta di Corrado Passera, che saluto. Buongiorno Passera. Buongiorno, buongiorno direttore. Eccoci qua, allora, intanto le chiedo questo, lei nel 2013 a Panorama disse in un'intervista: non possiamo perdere la libertà e spalancare le porte alla Troica, poi magari parliamo del suo partito, però vista la luce di questa dichiarazione, sarà contento allora di una vittoria di uno come Tsipras in Grecia oppure la preoccupa? Ma guardi, quando dissi la parola Troica, che poi divenne un rischio reale nel 2011, quel rischio c'era, a forza di non fare le cose, accumulare debiti, non fare le riforme e perdere credibilità internazionale, quel rischio era venuto. Ci siamo impegnati tutti, Parlamento, Governo, parti sociali, e l'abbiamo evitato. Sì. Adesso in Grecia c'è stata questa reazione a un lungo periodo di difficoltà che se non faranno anche lì a casa loro, se non metteranno a posto le cose, continuerà. Però c'è stato un grande segno per proviamo a rimetterci e superare la nostra difficoltà. Non c'è per ora un grande piano convincente, speriamo venga, speriamo non si parli di non rispettare gli impegni, perché come lei sa i soldi che sono stati prestati alla Grecia sono i soldi dei contribuenti anche italiani. Sono tanti, sono tanti, peraltro. Beh, l'Italia ci ha messo 40 miliardi e quindi sarebbe impensabile che i soldi dati per aiutare un paese in difficoltà non venissero restituiti. Comunque, speriamo che questa volta, dopo anni di poca azione, ecco, ci sia la voglia di rimettere a posto le cose nel loro paese, di fare un piano credibile sulla base della quale si possa dare anche il supporto e l'aiuto necessario. Ma deve preoccupare, secondo lei, oppure, cioè, per esempio, cosa potrà fare il Fondo Monetario? Oggi Christine Lagarde dice a Le Monde, ma l'intervista è anche su Repubblica, è esclusa la cancellazione del debito della Grecia. Però pensiamo ad altre cose. Cosa si potrebbe pensare di fare? Ma guardi, se un paese, e questo vale anche non solo per la Grecia, ecco, presentasse un bel piano di riforme vere, ma soprattutto di rilancio del paese, di investimenti, e chiedesse aiuto per finanziare un piano di crescita comprensibile e convincente, non vedo perché non si potrebbe aiutarlo. Però non può essere soltanto chiedere soldi, chiedere di non restituire debiti, rimandare la risoluzione dei problemi. La Grecia è finito nell'angolo dove è finito anche perché ha lasciato esplodere l'evasione, anche perché ha lasciato esplodere la spesa pubblica, anche perché non ha fatto gli investimenti giusti. Quindi se uno riprende in mano il proprio paese può chiedere un supporto, ma non certo solo per non pagare i propri impegni. Quindi riforme vere prima. Secondo lei il governo riforme e investimenti. Il governo, per esempio, italiano, e veniamo qui all'Italia, le ha fatte, le sta facendo? Le piace il governo Renzi? No, purtroppo abbiamo perso un altro anno. Non siamo intervenuti in nessuno di quei campi che servono per creare lavoro e per creare crescita. Il nostro paese ormai ha gli investimenti a zero e quasi quasi sono stati ulteriormente ridotti. Siamo un paese che ha una classe media, un ceto medio impaurito, e gli abbiamo aumentato le tasse sul risparmio, sulla previdenza, sulla casa. Cioè, proprio direi l'opposto di quello che c'era da fare. Abbiamo passato un anno a fare riforme istituzionali non prioritarie e peraltro fatte male, perché se pensa che ha un Senato... Cioè, quali sono? La riforma del Senato? La legge elettorale? Pensa al Senato. Cioè, tu prendi, invece di dire basta una Camera e quindi riduci il numero di corpi istituzionali, il Senato è ancora lì, è stato messo nelle mani dei consigli regionali, che sono quelli che invece dobbiamo andare a correggere, perché le regioni sono il principale problema del nostro non funzionamento del federalismo. Quindi invece di dire basta, chiuso, abbiamo solo una Camera, abbiamo tenuto e l'abbiamo pure messo in mano di quei consigli regionali che dobbiamo andare a ridurre. Province ci sono, non ci sono, ci sono quelle metropolitane, non sappiamo se sapranno le elettive, le responsabilità dove vanno. Semmai ci sarebbe da prendere il modello di città metropolitana e fare le province anche non metropolitane e lì concentrare quei 10.000 enti pubblici, politici, i bacini, i comuni, gli ATO, cioè tutte quelle cose che fanno retorica inutile. Lei dice non ha visto per ora queste cose. Però, e veniamo qui alla questione del suo partito, cioè perché secondo lei c'è spazio per un nuovo partito che, ricordiamo, è Italia Unica, nascerà ufficialmente sabato. Tra l'altro lei un'esperienza al governo, sebbene tecnico, l'ha fatta. Perché gli italiani dovrebbero credere in lei, nel suo partito? Ma guardi, io nella pubblica amministrazione ho vissuto i 5 anni alla Posta e abbiamo dimostrato che la pubblica amministrazione si può rinnovare fortissimamente. Al Ministero sia dello Sviluppo che dei Trasporti e delle Infrastrutture abbiamo dimostrato che si potevano fare in poco tempo, in momenti difficilissimi, liberalizzazioni impensabili come quella del commercio, del gas, del credito. Per darle solo un'idea, gli investimenti, cioè, per me sono state entrambe dimostrazioni che si può, però ci vuole un coraggio di cambiare le cose sul serio, di un livello di ambizione per il nostro paese che ce la può fare e continua invece a men che sopravvivere. E poi gli italiani ci stanno dicendo i quattro populismi che si ci dividono l'Italia, non ci vanno bene. Ma pensi, un'Italia dove il 50, il 60% degli italiani non votano neanche più o votano scheda bianca, è veramente un segno fortissimo del dire: noi vogliamo parlare seriamente di problemi, vogliamo risolverli, vogliamo andare avanti, vogliamo sentire parlare. Per cui lei vuol pescare in pratica tra coloro che sono sfiduciati dalla politica, quelli che non vanno a votare. Molti che votano tappandosi il naso, perché pensi a quanti hanno votato Renzi solo perché l'alternativa era Grillo, quanti comunque stanno nei vecchi partiti sapendo che sono partiti alla fine. Comunque è veramente un progetto con, ho presentato un'idea di rilancio dell'economia di quasi 500 miliardi, perché per rompere questa recessione infinita bisogna avere grande determinazione. Riforme forti, ma partendo dalla scuola, partendo dalla burocrazia, dove ho dimostrato che si può cambiare le cose insieme alle persone che lavorano per lo Stato. Senti, ma 500 miliardi dove li trova? Sono tanti come rilancio. Infatti ogni proposta deve avere la sua fonte. Pensi soltanto ai 100 miliardi di debiti scaduti della pubblica amministrazione che oggi gravano sulle piccole e medie imprese. Vanno pagati e si può, e si spiega come e dove si trovano i soldi. Gli investimenti che oggi sono a zero, prendiamo i fondi strutturali che sono più di 100 miliardi, facciamo una grande operazione di incentivazione fiscale per chi investe in ricerca e innovazione, mettiamo in moto le ferrovie nel sud, ma sono soltanto degli esempi. Il credito di nuovo alle piccole e medie imprese. Utilizziamo il fondo centrale di garanzia, ma alla grande, perché molte imprese non sono neanche più bancabili, c'è bisogno di un intervento di garanzia del pubblico. E ridurre le tasse, dimezzare le tasse per le imprese, bastano 20 miliardi. Sì. E lei sa che 20 miliardi tra i contributi a fondo perduto, gli incentivi a pioggia, i costi standard, li si può recuperare. Però mi scusi, cambia il profilo, sì, mi scusi, passela. Lei per esempio dice ridurre le tasse, qualcuno veda il governo Monti, di cui lei ha fatto parte, come uno dei governi che ha aumentato le tasse, certo in una situazione, si dice, una situazione di difficoltà, di quasi pre-default. Lei sa che quell'anno c'erano state tre finanziari del governo precedente e Tremonti aveva fatto un'esplosione di, mi sembra, se ricordo giusto, 80 miliardi di tasse in più. Dopodiché quello che ha fatto il governo Monti insieme al Parlamento e a tutte le parti sociali è stata la riforma delle pensioni per rendere sostenibili le pensioni, perché sennò ci scappavano di mano. Aver fatto l'operazione. Lei l'ha sostenuta quella riforma, la riforma Fornero, che poi adesso abbiamo avuto proprio Elsa Fornero 2 giorni fa dopo che è stato bocciato il referendum della Lega. Guarda, la riforma delle pensioni era indispensabile per difendere le pensioni di tutti. Se avessimo continuato a pensare di poter andare in pensione prima dei 60 anni con il sistema retributivo e non contributivo, era scritto che noi avremmo raggiunto velocemente un livello di non sostenibilità. In questo modo, senza togliere nulla di quello dell'accumulato, però avendo un meccanismo che lo rende sostenibile, abbiamo fatto sì. E quando dico abbiamo, dico governo, Parlamento, associazione delle imprese e sindacati, perché quella riforma è stata fatta con un livello di appoggio e con un livello di così partecipazione che veramente è quella che poi ha fatto cambiare anche la credibilità sull'Italia. Sì. Quindi difficile ma necessaria. Oggi come si fa a ridurre le tasse? Dice, è cambiata la situazione e si può rispetto a 3 anni fa? Naturalmente andando a tagliare dove c'è da tagliare. Se lei prende, ripeto, soltanto gli ammontari di contributi a fondo perduto e di leggi di incentivazioni, ce ne sono più di 1000 che le regioni fanno. Pensi che stiamo ancora parlando di costi standard nella sanità e non li realizziamo. Pensi, ma sono soltanto degli esempi, pensi soltanto ai catasti non aggiornati. Comunque, per dimezzare le tasse alle imprese, sull'utile delle imprese, e rendere l'Italia molto più attraente per gli investimenti sia italiani che esteri, sono sufficienti 20 miliardi e appunto soltanto con una parte di quello che l'ho detto prima possono essere coperti. Possono fare. Mi non faccio... sono cose no, no, ma è chiaro. Poi dopo verrete ovviamente valutati come la politica dagli elettori. Le ultime due domande che le faccio è questa: chi vorrebbe lei al Quirinale a questo punto? Tanto è un totonomi, dica anche il suo, Passera. Chi le piacerebbe al Quirinale? Per finire il discorso di prima, guardi che oggi con questo blocco che si è creato tra Renzi e Berlusconi, che quindi di fatto manca l'alternativa, l'alternanza nel nostro sistema, dare voce a tutti quelli che dicevo prima e creare un'alternativa moderna di Italia che può vincere nella globalizzazione liberale, popolare, guardi che è un bellissimo progetto. Allora, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, lo diciamo da sempre, sì, lo ripetiamo oggi a pochissimi giorni, forse a ore dalla nomina. Guai se i due, Berlusconi e Renzi, si fanno il presidente debole su misura, il presidente onorario, il presidente taglianastri. È un momento di tale confusione istituzionale, di tale crisi economica. Cioè, ne vorrebbe uno forte invece, uno che vuole un signore o una signora molto forte, molto credibile internazionalmente, che abbia fatto esperienza istituzionale forte, perché non è un momento da tentare delle persone, e soprattutto una persona indipendente. Allora, se prende indipendenza, credibilità internazionale ed esperienza istituzionale, vede che ben pochissimi sì, dei nomi che sono stati buttati sul tavolo passano. Ci sono. L'ultima domanda è questa, passa, mi faccio tornare alla vicenda di qualche anno fa dei Marò, perché come lei ben sa l'ex ministro agli esteri Terzi del governo Monti accusò lei di essere stato uno di coloro che più spingevano per riportare i due Marò in India dopo una licenza. Lei si sente questo peso oppure no? Guardi, c'è stato un momento in cui l'Italia ha rischiato di diventare un paese a cui nessuno avrebbe mai più creduto. Avevamo chiesto all'India di poter far rientrare in Italia per alcune settimane i due Marò, dando la nostra parola scritta e ufficiale che sarebbero tornati. E alla fine sarebbero tornati. L'idea di dare la propria parola come paese e non rispettarla sarebbe stata per sempre la fine della fiducia nella parola del governo italiano. Certo, sono stati fatti anche dal ministro degli esteri, anche dal ministro della difesa, degli errori iniziali e nel condurre la cosa, ma pensare di risolvere un problema del genere buttando alle ortiche la credibilità, la fiducia, il poter credere nella parola dell'Italia avrebbe avuto un costo enorme. Troppo alto. Tutti, perché la decisione è stata presa all'unanimità, ecco, si è deciso di fare questa cosa, di farli rientrare, perché era l'unica cosa giusta e possibile. No, guardi, quello del rispettare gli impegni è una delle cose che insegna, ciascuno di noi insegna anche ai propri figli. Sì. Oggi era il compleanno di mio figlio che ho portato a scuola, era solo 3 anni, compie solo 3 anni, però l'idea di rispettare la parola che dà, le promesse, guardi che è una cosa importante. La ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per Italia Unica che nascerà sabato e noi andiamo al traffico. Grazie a Corrado Passera. 24 mattino. Ciao Italia! Siete pronti? Siamo qui al nostro momento conclusivo in cui invitiamo un nostro ascoltatore dall'estero o ascoltatrice. Oggi però abbiamo un ascoltatore ed è Alberto che saluto. Alberto, buongiorno. Buongiorno Alessandro, ciao. Ciao, buongiorno. Abbiamo solo purtroppo un paio di minuti. Dove sei tu? Allora, in questo momento sono vicino a Leeds, ma abito vicino a Coventry. In Inghilterra. E che ci fai? In Inghilterra. Faccio l'agente di commercio per una ditta italiana di Alto Atesina. E siamo specializzati nella costruzione in legno. Quindi vendo a chi fa strutture. È bello stare in Inghilterra rispetto all'Italia? Ha i suoi pro e i suoi contro come tutte le cose, però devo dire che sto molto bene. Sì, stai molto bene. Qualcosa mi manca dall'Italia, però che cosa, le cose per qua esempio? Funzionano. La cosa che mi manca di più è fare il bagno nel mare Adriatico alle 8 di sera durante l'estate. Ma è straordinaria questa cosa. E lì effettivamente il mare è un po' freddino, dove c'è il mare. Esatto. Il mare essendo un'isola c'è, ma diciamo che quella cosa lì non si può fare. Non si può fare. Come ci ascolti, Alberto? No, esatto. Tu da Coventry? Allora, vi ascolto, da Leeds. Allora, vi ascolto solitamente quando sono in ufficio in streaming, oppure scarico il podcast nei McDonald's quando quando trovo il McDonald's. Perché nel McDonald's? Cioè, fantastica questa. Perché la connessione wifi è molto buona. Allora, è bellissima questa cosa. Cioè, tu vai nei McDonald's e scarichi i podcast di 24 mattino. Esatto. È bellissima questa cosa. Lasciaci così e ti ringrazio, Alberto, per averci contattato come quelli che ci ascoltano dall'estero. Fatelo! 24 mattino è radio24.it. Scriveteci! A domani. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com. Vi ha presentato 24 mattino.